punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Secondo il ministro dell'economia Giulio Tremonti, il 2009 sarà un anno ancora più difficile del 2008. Devono essere le donne a scegliere quando andare in pensione, a dirlo il ministro delle riforme, il leader della Lega Umberto Bossi. Borse europee deboli in attesa delle decisioni del consiglio direttivo della BCE alle 13.45, la decisione appunto ve la daremo in diretta. La Cina protesta formalmente per il mandato d'arresto ordinato dalla Corte Penale Internazionale per il presidente sudanese Bashir in riferimento alla strage del Darfur. I migliaia in piazza Khartoum per sostenere il presidente. Ancora dubbi e sospetti sull'arresto di due romeni per lo stupro della Caffarella. L'uomo che ha confessato avrebbe coperto altre due persone. 13 arresti in tre regioni per un traffico di clandestini fra Libia e Italia. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo andando a quello che è stato definito il Credit and Liquidity Day. E sì, è l'incontro che si sta svolgendo al Ministero dell'Economia con banche e imprese. Lo sta seguendo per noi Vincenzo Miglietta. Vincenzo, allora, che cosa è emerso finora? Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Il rischio dei rischi e la stretta creditizia, è questa la preoccupazione espressa dal ministro dell'economia Tremonti aprendo l'incontro qui al Tesoro su imprese, lavoro, banche. Per Tremonti è fondamentale evitare che si blocchi il flusso di liquidità dal settore bancario al mondo produttivo. È necessario per il responsabile del ministero di via 20 settembre che si facciano tutti gli sforzi affinché questo canale non si prosciughi, mettendo così a rischio la conservazione della base industriale. Il governo sta facendo la sua parte, ha fatto capire Tremonti, da qui la difesa dei cosiddetti Tremonti bond sono ossigeno per l'economia, ha detto il ministro. A chi rimprovera il governo di aver investito di meno per il settore bancario rispetto ad altri paesi europei, Tremonti ha risposto: il credito italiano gode di buona salute rispetto al resto d'Europa. Tremonti non ha nascosto tuttavia le difficoltà per il nostro paese. Il 2009, ha detto, sarà un anno ancora più difficile del 2008. Le parti sociali, infine, Confindustria ha proposto di rifinanziare il fondo di garanzia. I sindacati hanno auspicato una maggiore attenzione alla tutela dell'occupazione nelle piccole e medie imprese. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo. Nel frattempo resta al centro delle discussioni anche l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne nel pubblico impiego. Devono essere le donne a scegliere, queste le parole poco fa del ministro per le riforme Umberto Bossi, leader della Lega, sull'emendamento alla legge comunitaria che potrebbe essere presentato dalla senatrice Cinzia Bonfrisco del PDL. Bossi dice: vedremo, e con una battuta aggiunge: in aula ci azzufferemo. E per quanto riguarda sempre le pensioni, oggi c'è la CGIL in piazza a Roma per chiedere al governo l'adeguamento delle pensioni all'inflazione e l'estensione della quattordicesima. Allora sentiamo quanto dichiarato dal segretario della CGIL Guglielmo Epifani a margine della manifestazione. Ci sono due pesi e due misure. Un governo decisionista quando deve togliere e un governo lentissimo quando deve dare. Questa è una crisi in cui, se non si dà da investimenti, da ricerca, da informazione, da sostegno ai redditi di coloro che stanno peggio, non si uscirà dalla crisi facilmente. Dicevamo in apertura delle previsioni del ministro dell'economia. Intanto sono arrivati da Eurostat i dati preliminari sull'andamento del prodotto interno lordo in Europa. Nel 2008 il PIL ha segnato una crescita dello 0,8% nei paesi dell'euro e dello 0,9% nell'Unione Europea. Un calo dello 0,8% nei paesi dell'euro e dello 0,9% nell'Unione Europea. Numeri decisamente diversi rispetto all'anno precedente, quando il PIL di Eurolandia era appunto cresciuto del 2,6% e quello di tutti i paesi dell'Unione era aumentato del 2,9. Tre giorni fa la visita in Libia di Silvio Berlusconi e le celebrazioni per la firma dell'accordo con il presidente Gheddafi, che chiude il periodo coloniale con risarcimenti da parte del nostro paese per 5 miliardi di euro, ma anche la promessa da parte della Libia di aiutare il nostro paese nella lotta all'immigrazione clandestina. E oggi una grande operazione proprio per sgominare il traffico di esseri umani tra Italia e Libia. I carabinieri dei ROS stanno eseguendo tra Sicilia, Calabria e Lombardia 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti indagati accusati di associazione per delinquere finalizzata al sequestro di persona a scopo di estorsione, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla falsificazione di documenti. Al centro delle indagini coordinate dalla DDA di Bari, un sodalizio transnazionale specializzato nel trasferimento dalla Libia alle coste dell'Italia meridionale di clandestini sottoposti a sfruttamento in varie località del territorio nazionale dopo essere stati fatti fuggire dai centri di accoglienza in cui erano stati ricoverati. I militari hanno anche documentato numerosi sequestri dei migranti che venivano rilasciati dopo il pagamento di un riscatto da parte di congiunti. Giovanni Longo, GR24, Il Sole 24 Ore, Bari. Era considerato uno dei capi della principale cosca di Crotone. La polizia ha arrestato a Settimo di Montalto Ugufo, a pochi chilometri da Cosenza, Giuseppe Vrenna. L'accusa è di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata ad estorsioni ed omicidi. Era latitante dall'aprile scorso. Rimaniamo sulla cronaca con un caso che sta facendo discutere, quello dei due romeni arrestati per lo stupro nel parco della Caffarella a Roma. Nonostante il DNA li abbia scagionati, appunto, restano in carcere. Sentiamo. Quei due lo avevano terrorizzato, avevano dei conti in sospeso, per questo il biondino li starebbe proteggendo. Lo ha detto Carol Rax, detto il pugile, riferendosi ad altri due rom a cui Alexandru Loios starebbe coprendo le spalle. Il rebus della Caffarella ha due chiavi di lettura. Da una parte le confessioni, i dettagli, le macchie di sangue ritrovate sui pantaloni, l'identificazione avvenuta grazie agli identikit forniti dalla giovane vittima, che incastrano i due rumeni. Dall'altra l'esame del DNA che ha dato esito negativo. Queste analisi possono sbagliarsi? Risponde Maura Menaglia, biologa del laboratorio scientifico Genoma di Roma. Nell'esame del DNA fatto con i criteri che si usano oggi e che sono stati eseguiti dalla scientifica, penso assolutamente no, nel senso che il profilo genetico di ogni individuo è unico, viene fatto con alcune caratteristiche che sicuramente non, in questo caso non credo ci possono essere margini d'errore. L'errore può essere a monte nella campionatura. La campionatura suscita i dubbi di altri ambienti di investigazione scientifica. Il parco è un ambiente promiscuo, mozziconi di sigaretta come quello su cui è stato rilevato il DNA ce ne sono tanti. Resta il liquido seminale. Su quale materiale è stato rinvenuto? Il DNA è stato confrontato con quello del fidanzatino della vittima? Lunedì si pronuncia il tribunale del riesame, ma i due accusati potrebbero comunque rimanere in carcere. Il biondino accusato di calunnia, Carol Rax per il suo coinvolgimento in un altro stupro. Nicola Cardo, GR24, Il Sole 24 Ore. E su questo caso sentiamo l'opinione dell'ex prefetto, ora senatore del Partito Democratico, Achille Serra, intervenuto oggi a 24 Mattino, ospite di Alessandro Milan. Conto di quanto l'opinione pubblica, di quanto il mondo di certa politica possa rendere la vita difficile a un investigatore, nel senso di fargli perdere talvolta quella serenità, quella lucidità per affrettare le risposte, per dare dei risultati. E questo l'investigatore non lo fa certamente in malafede, sa quante volte è successo a me durante la mia esperienza, ma lo fa proprio inconsciamente perché pressato e quindi a rischio di perdere la lucidità. Cioè, mi sta dicendo che la politica voleva un colpevole subito da far vedere? No, credo che non sfugga a nessuno la pressione, anche giusta, perché sono episodi gravissimi e quindi delle risposte indubbiamente vanno date, e vanno date anche velocemente. Il rischio è poi di non avere conferma dalle indagini successive. Io non vorrei che in questa circostanza si fosse dato credito, ma per carità lo dico con le molle, a qualche riconoscimento fotografico che non ha mai dato, se non in pochissime circostanze, esito favorevole. E intanto, proprio in tema di sicurezza, i vertici del Partito Democratico incontrano i sindacati di polizia. Ha seguito questo incontro il nostro Andrea Viali. Andrea, che cosa è emerso? No, alle ronde sia maggiori risorse per le forze dell'ordine, il Partito Democratico rilancia sulla questione sicurezza e boccia i provvedimenti varati di recente dal governo. Affidare la gestione della sicurezza ai privati viola i principi dello Stato di diritto e, come dimostrano i casi degli ultimi giorni, a partire da quello di Padova, per polizia e carabinieri rischia di essere più un problema che un aiuto, sostiene il segretario del PD Franceschini, che rilancia l'ipotesi dell'election day per reperire risorse da destinare alle forze dell'ordine. Ma sentiamo Franceschini. Si voti in giugno, non in due domeniche, ma solo il giorno 7 per le amministrative, le europee e il referendum insieme. E si utilizzino i 460 milioni di euro risparmiati con l'election day per la benzina, le riparazioni dei mezzi, le volanti, per assumere subito 5.000 poliziotti, carabinieri e finanzieri. Qual è il senso di questa cosa? Sì alle forze di polizia, no alla pericolosa demagogia delle ronde. E anche di questo il Partito Democratico ha discusso oggi qui alla Camera con le rappresentanze sindacali delle forze dell'ordine, che si sono quasi tutte dette contrarie all'utilizzo delle ronde. Per il momento da Montecitorio è tutto. Grazie Andrea Viali. Ed è notizia di poco fa che la Banca d'Inghilterra ha tagliato oggi il costo del denaro di un ulteriore mezzo punto, portando così i tassi allo 0,5%. Si tratta del livello più basso mai toccato. Vi ricordiamo che anche la BCE oggi prenderà una decisione alle 13.45 e naturalmente ve ne daremo notizia in diretta. E adesso parliamo di musica, perché inizia oggi il tour mondiale di Laura Pausini. Prevede oltre 30 date in Europa e toccherà poi Stati Uniti, Canada, America Latina, Australia. Ci spiega tutto Paolo Panceri. Il duetto di Laura Pausini con James Blunt nel brano che dà il titolo all'album è una delle canzoni più belle di Primavera in anticipo, l'ultimo lavoro della cantautrice romagnola, che questa sera lo presenta dal vivo al Palaiso Zacchi di Torino, prima data del lungo tour mondiale. Primavera in anticipo da novembre ai vertici delle classifiche di vendita e ha già conquistato 6 dischi di platino. Secondo la critica si tratta del lavoro più personale e maturo della Pausini, che firma la maggior parte dei brani incisi negli Abbey Road Studios di Londra, dove i Beatles hanno realizzato l'omonimo disco giusto 40 anni fa. Il tour 2009 di Laura Pausini prevede oltre 30 date in Europa prima di approdare negli Stati Uniti, in Canada, America Latina ed Australia. La grande richiesta dei biglietti ha portato a triplicare le date previste a Roma 14, 15 e 16 marzo e Milano 22, 23 e 24 aprile e a raddoppiare i concerti a Torino 5 e 6 marzo, Caserta 27 e 28 marzo e Treviso 16 e 17 aprile. L'ampiezza del tour ribadisce da una parte e rilancia dall'altra il successo internazionale di Laura Pausini, prima donna italiana ad aver tenuto un concerto allo stadio di San Siro di Milano e ad aver vinto un Grammy Award, l'Oscar della musica. Di tutto il buono che c'è. Paolo Panceri, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie principali della giornata. Secondo il ministro dell'economia Giulio Tremonti, il 2009 sarà un anno ancora più difficile del 2008. È strategico contrastare il rischio dei rischi, dice, ossia la stretta creditizia. Devono essere le donne a scegliere quando andare in pensione, a dirlo il ministro delle riforme, il leader della Lega, Umberto Bossi. E il segretario della CGIL, Guglielmo Epifani, torna a chiedere all'esecutivo un intervento rapido per migliorare la situazione dei pensionati. La banca centrale inglese ha tagliato i tassi di mezzo punto per percentuale, portandole allo 0,5%, attesa per le decisioni della BCE alle 13.45. La Cina ha protestato per il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per il presidente sudanese Bashir, migliaia di persone in piazza a Khartoum per manifestare il loro sostegno al presidente. Maxi operazione contro il traffico di clandestini fra Libia e Italia, 13 gli arresti fra Sicilia, Calabria e Lombardia. La notizia ormai la sapete, la riassumiamo. I giudici della Corte Penale Internazionale dell'AIA hanno chiesto l'arresto per il presidente del Sudan, Omar al-Bashir. È accusato di crimini contro l'umanità, sterminio, stupro e crimini di guerra. Non c'è invece l'accusa di genocidio perché le prove erano insufficienti. Per contestualizzare queste accuse, ricordiamo che l'incriminazione si riferisce a quanto accaduto nella regione sudanese del Darfur, dove dal 2003 è in atto un feroce conflitto. Da una parte c'è la maggioranza della popolazione, composta da tribù sedentarie, e dall'altra la minoranza nomade, che però è appoggiata dal governo centrale, un appoggio che è dato per soffocare i movimenti autonomisti che sono nati fra le tribù sedentarie. Tra poco andremo sulla cronaca con la reazione di Bashir, che oggi ha tenuto un discorso al popolo. Ma prima vediamo di fare il punto giuridico sulla situazione. Antonio Cassese, che è un giurista, è stato presidente del Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia ed è stato anche presidente della Commissione Internazionale d'Inchiesta dell'ONU sul conflitto del Darfur. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, Cassese, un suo commento, è soddisfatto su questa sentenza, visto che lei appunto aveva presieduto la commissione d'inchiesta? Sì e no, nel senso che certo è importante incriminare uno dei tanti responsabili di quei massacri nel Darfur, soltanto che le modalità mi lasciano molto perplesso. Cioè, perché? Perché questa decisione, con il mandato di arresto del presidente del Sudan, è destinata a non avere alcun effetto pratico, perché potrebbe essere eseguita il mandato d'arresto soltanto dalle guardie personali del presidente Bashir. Cosa che quindi non avverrà mai, insomma. Se Bashir rimane in Sudan, non può essere arrestato. Certo, ma anche se va all'estero, secondo me, e qui la mia opinione è diversa da quella del procuratore Moreno Campo, secondo me gli altri stati non hanno alcun obbligo di arrestarlo, perché devono rispettare le sue immunità personali o diplomatiche, perché è un capo di Stato in esercizio. Quindi anche se venisse a Roma o andasse a Berlino o a Parigi, secondo me le autorità di questi paesi non possono procedere contro di lui ed arrestarlo, appunto perché, in base a un meccanismo che è troppo complicato spiegare, lo statuto stesso prevede che i terzi stati, cioè quelli che non hanno ratificato lo statuto, come nel caso del Sudan, non sono tenuti a cancellare, diciamo, le immunità di cui godono normalmente i capi di Stato, di governo e ministro degli affari esteri. Quindi è un atto giudiziario che ha un grande impatto mediatico, che suscita una grande eco, che indubbiamente in larga misura delegittima politicamente Bashir, ma che però non verrà mai eseguito. Quindi mi chiedo, valeva la pena di fare tanto scalpore per avere un pugno di mosche in mano? E proprio a questo volevamo venire, professore, ossia si è celebrato molto il fatto che fosse la prima sentenza di questo tipo indirizzata ad un presidente in carica. A questo punto in realtà però il valore di questa sentenza è puramente simbolico. No, guardi che è una decisione che è accompagnata preliminare di tre giudici di una camera preliminare che si sono pronunciati sulla richiesta di cattura, quindi non è neanche una sentenza, è soltanto una richiesta di ordine di cattura, e i giudici hanno emesso l'ordine di cattura con una motivazione di 95 pagine che invece si può leggere nella decisione. Non è neanche storicamente il primo atto, perché prima di Bashir sono stati incriminati, quando erano presidenti in carica, sia Milosevic nella Serbia-Montenegro nel 1999, sia più di recente l'allora presidente della Liberia, Charles Taylor, che poi è andato in Nigeria ed è stato arrestato qualche anno dopo. Quindi è il primo atto del genere per la Corte Penale Internazionale, non per la giustizia penale internazionale, perché ci sono questi precedenti. Però a questo punto, mi scusi Cassese, che valore hanno le decisioni della Corte Penale Internazionale dell'AIA? Lei, sappiamo, ha presieduto anche invece quella per i crimini nell'ex Jugoslavia. Insomma, che valore hanno questi organismi giudiziari cosiddetti super partes internazionali? Non hanno valore se si tratta della Corte Penale Internazionale. Mi spiego, la Corte Penale Internazionale è basata, è un organismo importantissimo perché ha tendenza universale, è basata però su un trattato, quindi questo trattato vincola soltanto gli stati che ratificano il trattato, cioè che si sottopongono al trattato con la ratifica. E molti stati, la Cina, la Russia, gli Stati Uniti d'America, il Sudan, tutti gli stati arabi tranne uno, non hanno ratificato lo statuto. Quindi la Corte è un gigante che è un gigante che non ha braccia e gambe e ha bisogno di queste di protesi per agire. Le protesi sono la polizia giudiziaria degli stati contraenti o degli stati non membri. Cioè ci può essere anche uno Stato che non ha ratificato, che si sottopone e quindi fornisce i propri tribunali e soprattutto i propri poliziotti per acquisire le prove, eccetera, eccetera. Diverso il discorso per l'ex Jugoslavia, perché l'ex Jugoslavia, il tribunale per l'ex Jugoslavia, così come quello per Ruanda, Questi due tribunali sono stati creati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una decisione vincolante, quindi sono organi sussidiari del Consiglio di Sicurezza, e quella decisione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU è una decisione che vincola tutti gli stati del mondo, anche gli stati non membri delle Nazioni Unite, ormai sono tutti membri delle Nazioni Unite, anche la Svizzera. Quindi in quel caso il Tribunale per ex Jugoslavia e quello per il Ruanda hanno una forza maggiore, perché? Perché hanno alle spalle il potere del Consiglio di Sicurezza. Lei mi dirà, ma anche in questo caso il Consiglio di Sicurezza ha deferito la questione del Darfur alla Corte Penale Internazionale, quindi anche in questo caso ci sarebbe dietro le spalle questa forza del Consiglio di Sicurezza? Eh no, perché il Consiglio di Sicurezza in questo caso ha fatto due passi avanti e forse tre indietro, o due indietro. Perché? Perché ha detto questa questione venga risolta, discussa, decisa dalla Corte Penale Internazionale e il Sudan deve collaborare. Sudan, Stato che non ha ratificato lo Statuto, deve collaborare con la Corte, però non ha aggiunto il passo importante, tutti gli Stati del mondo devono collaborare, ha soltanto detto invito gli altri Stati ad assistere la Corte, invito, ma l'invito non serve a nulla, quando per esempio Bashir vorrà andare, che dico, in Nigeria o in Egitto o in Iraq o in Italia o in Germania, questi stati non hanno alcun obbligo imposto dal Consiglio di Sicurezza di cooperare e quindi di arrestarlo. E perciò quindi rimarrà una cosa simbolica, puramente mediatica. Grazie ad Antonio Cassese, giurista, ex presidente del Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia e anche presidente della Commissione Internazionale d'Inchiesta dell'ONU sul conflitto del Darfur, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie, buongiorno. E a proposito della decisione della Corte dell'AIA appunto di spiccare un mandato d'arresto contro Bashir, la Cina, che è il principale partner commerciale del Sudan, ha detto che è un errore che potrebbe seriamente mettere a repentaglio il tentativo di pacificare il Darfur. Per questo, dice Pechino in un messaggio che può essere letto come un chiaro avvertimento agli altri membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ci opporremo a qualsiasi mossa che possa far fallire i tentativi di realizzare la pace in Darfur e Sudan. E questa mattina, come anticipavamo, c'è stato un discorso infuocato del presidente sudanese al suo popolo. Ce ne parla Adib Fateh Ali. Unanime la reazione negativa del mondo arabo al mandato d'arresto spiccato ieri dal tribunale dell'AIA contro il presidente sudanese per i crimini di guerra nel Darfur. Invece che sulle stragi contro le popolazioni civili, i media arabi preferiscono parlare di uso politico delle istituzioni giuridiche internazionali contro il Sudan. Per Al-Quds Arabi, incriminare al-Bashir è una giustizia miope. La maledizione del Darfur trasforma un presidente in un ricercato, titola invece Al-Hayat. Mentre le piazze sono in fermento, i governi come quelli di Giordania, Iraq, Libano, Libia e lo Yemen, guidati dall'Egitto, sono solidali con il paese fratello e chiedono a gran voce il congelamento dell'ordine di cattura. Intanto, stamani, il diretto interessato al Bashir, in aperta sfida col Tribunale Internazionale, ha radunato la folla a Khartoum per dire che non si piegherà e che i veri criminali sono Israele e l'Occidente. Adib Fateh Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. È stato definito il libro sull'immigrazione che piace alla destra. Alessandra, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di African Inferno, scritto da Pier Sandro Pallavicini e pubblicato da Feltrinelli. È un bel romanzo in cui si parla molto di immigrazione, soprattutto dei rapporti fra gli italiani e i neri africani. Protagonista è un uomo italiano sui 40 anni che, dopo la separazione dalla moglie, va a vivere in un appartamento con due giovani camerunesi. Questa è un po' l'occasione per mettere a confronto le diverse culture, ma anche per rendersi conto dei pregiudizi che molti bianchi hanno appunto nei confronti dei neri, come ci ha raccontato lo stesso autore. Uno dei pregiudizi più comuni, per esempio in Italia, è quello di non assegnare il valore giusto alle persone. Per esempio, si tende spontaneamente a dare del tu a tutti i neri che si incontrano, si tende spontaneamente a considerarli come persone alla canna del gas, per così dire, dal punto di vista economico, si tende spontaneamente ad aver paura di loro, ad assegnargli un coefficiente di pericolosità che normalmente invece non hanno. Ecco, sono pregiudizi di tipo non razzista, ma certamente dei pregiudizi sulla scala della considerazione. La cosa bella di questo romanzo è che vengono presentati anche i pregiudizi che per esempio i neri hanno nei confronti dei bianchi. Leggendo il romanzo, per esempio, io ho appreso che in molte società africane l'omosessualità è un tabù decisamente più grande rispetto alla società occidentale. Quali sono gli altri pregiudizi nei nostri confronti? Se posso aggiungere una cosa sull'omosessualità, che secondo me è molto divertente, molti dei miei amici e amiche africane mi dicono che l'omosessualità nel loro paese non esiste, si prende quando si viene nell'Europa perversa, come se fosse una sorta di malattia. Poi un altro dei pregiudizi che purtroppo ho avuto modo di vedere frequentemente è sul come gli uomini italiani, in particolare bianchi in generale, considerano le loro donne, cioè in modo troppo, come dire, troppo buono, troppo accondiscendente, mentre bisognerebbe tenerle strette in pugno, stando al maschio africano, quantomeno. Alessandra, poi ti ritroveremo per sapere di più su questo e altri romanzi con Il Cacciatore di Libri, ogni sabato alle 8:24 della mattina. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Notizia di poco fa: General Motors è sull'orlo del fallimento. Il colosso americano dell'auto parla di dubbi sulla capacità del gruppo di garantire la sua continuità. GM, in una nota alla SEC, che è l'autorità di borsa americana, mette nero su bianco la possibilità di avviare la procedura di bancarotta ricorrendo al cosiddetto Chapter 11, la legge americana che garantisce la protezione dai creditori. La banca centrale inglese ha tagliato questa mattina i tassi di mezzo punto percentuale, portando allo 0,5%. C'è attesa per le decisioni che prenderà la Banca Centrale Europea alle 13:45. E secondo il ministro dell'Economia Giulio Tremonti, il 2009 sarà un anno ancora più difficile del 2008. È strategico contrastare il rischio dei rischi, aggiunge, ossia la stretta creditizia. Devono essere le donne a scegliere quando andare in pensione, a dirlo il ministro delle riforme e leader della Lega Umberto Bossi. Il ministro del welfare Maurizio Sacconi, ospite di Radio 24, si dice intanto contrario all'ipotesi di allungare l'età pensionabile delle donne anche nel settore privato. Io sono personalmente contrarissimo nelle attuali condizioni di mercato del lavoro, non mi riferisco solo a quelle della grande crisi, a equiparare nel settore privato questa età di pensione, perché mediamente gli uomini vanno in pensione con l'anzianità contributiva, quindi prima dell'età di vecchiaia, perché hanno un percorso di vita lavorativa che glielo consente cioè di accumulare i contributi. Le donne no. Il segretario della CGIL, Guglielmo Epifani, torna a chiedere all'esecutivo un intervento rapido per migliorare la situazione dei pensionati. Ci sono due pesi e due misure. Un governo decisionista quando deve togliere e un governo lentissimo quando deve dare. Questa è una crisi in cui se non si dà da investimenti, da ricerca, da informazione, da sostegno ai redditi di coloro che stanno peggio, non si uscirà dalla crisi facilmente. La Cina ha protestato per il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale dell'AIA contro il presidente sudanese Bashir. Intanto migliaia di persone in piazza a Khartoum per manifestare il sostegno al presidente. Stupro della Caffarella, il principale indiziato accusa l'altro, detto il biondino, di coprire altri due rom. I due hanno raccontato in carcere a due parlamentari di essere stati picchiati più volte durante l'arresto e l'interrogatorio. Rimane il mistero legato all'esame del DNA, che ha avuto esito negativo, e si attende lunedì la decisione del Tribunale del Riesame sull'eventuale scarcerazione. Maxi operazione contro il traffico di clandestini fra Libia e Italia, 13 gli arresti fra Sicilia, Calabria e Lombardia. Notizia, anche questa di pochi secondi fa, sono dichiarazioni del ministro dell'economia Giulio Tremonti. Dice: la prossima settimana vi potrò annunciare che c'è un nuovo gruzzoletto, testuali parole, che va agli ammortizzatori sociali, e poi ce ne saranno altri ancora. Queste le parole di Tremonti in occasione del Liquidity Day. Ma noi continuiamo a parlare in qualche modo di ammortizzatori sociali, che però non vengono dallo Stato. In questo caso arrivano dalla Chiesa, sono gli aiuti che le singole parrocchie, magari i prestiti che fanno alle persone in difficoltà. Noi l'abbiamo un po' chiamato come il viaggio nelle parrocchie anticrisi. Oggi con Maria Luisa Pezzali andiamo a Prato. A Prato la crisi non è una novità, così non è una novità nemmeno la mobilitazione della diocesi a sostegno di chi si trova in difficoltà. Risale al 2003 la creazione di un fondo anticrisi per le famiglie, il primo del genere in Italia. Nel tempo vi hanno aderito banche, istituzioni locali, imprese e sindacati. Ha raggiunto quota 400.000 euro e fornisce sostegno anche a fondo perduto. Dal 2005 è attivo il microcredito per prestiti fino a 5.000 euro. Idalia Venco, direttrice della Caritas di Prato, ci spiega a chi sono destinati gli aiuti. Sia famiglie italiane che famiglie straniere. Fino ad oggi, diciamo, i nostri interventi sono venuti incontro nel pagamento magari del terzo mese del canone di affitto, in modo tale che non parta la lettera di sfratto, il pagamento di una rata del mutuo, per spese sanitarie, per l'acquisto di libri scolastici. Se settimanalmente prima si rivolgevano una decina di persone, ultimamente si arriva anche a 40-45 persone di famiglie italiane che non sono solo donne come avveniva prima, ma oggi arrivano anche molti uomini. Dal giugno scorso c'è anche l'Emporio Caritas, dove i bisognosi fanno la spesa senza soldi. Ha già distribuito merce per 180.000 euro. Ecco come funziona. Attraverso una richiesta che viene fatta da parrocchie, associazioni di volontariato, con una richiesta di una tessera punti. La merce che si trova all'interno degli scaffali ha un valore in punti e non in euro, non c'è denaro che corre all'interno dell'emporio, e tutto il materiale che noi abbiamo all'interno dell'emporio è materiale che ci viene donato. Domani vi racconteremo la storia di chi si è trovato nella condizione di chiedere aiuto e di come abbia usufruito di quello che abbiamo soprannominato il welfare state delle parrocchie. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di sostegno alle famiglie in difficoltà, nel pomeriggio a Roma ci sarà la conferenza unificata Stato-Regioni. Teoricamente al centro c'è il piano casa, ma è probabile che si discuta anche degli 8 miliardi di euro che governo e regioni hanno messo insieme per finanziare ammortizzatori sociali, inizialmente non destinati ai precari. Ma, e questa è novità di ieri sera, il governo sarebbe intenzionato a fare qualcosa di più anche per i precari. Non si tratta però di un sì alla proposta del segretario della PD Dario Franceschini per un assegno ai precari che perdono il lavoro. È un no, anzi, esplicitato anche oggi dal ministro del welfare Sacconi, intervenuto questa mattina a Parliamo con l'elefante al microfono di Giuliano Ferrara. La contestazione che io faccio alla proposta di Franceschini non è solo o tanto quella della copertura. La contestazione vera che faccio è la scelta che gli fa. Noi volutamente non abbiamo rafforzato lo strumento automatico che abbiamo, che è l'indennità di disoccupazione. Ma abbiamo rafforzato gli strumenti su base negoziale che abbiamo, come sono le casse integrazione e le indennità di mobilità, perché noi dobbiamo evitare che un'eccessiva disponibilità di strumenti automatici di protezione del reddito incoraggino il rattrappimento produttivo e occupazionale. Cioè le aziende dicono, siccome c'è l'indennità di disoccupazione, io scarico, rinuncio, mi rattrappisco, mi ridimensiono strutturalmente. Io faccio sempre l'esempio della Iris Ceramiche, questa azienda leader di Sassuolo, il cui imprenditore di successo, bravo, che anche per ragioni di età, pensa che in questo contesto di crisi di chiudere la fabbrica. E se avesse avuto ammortizzatori sociali non ce l'avrebbe neanche chiesto e avrebbe proceduto a farlo. A proposito di difficoltà economiche, vi abbiamo riferito nei nostri titoli di una notizia appena arrivata ed è la nota di General Motors all'autorità di borsa americana, nota nella quale si prospetta la possibilità che GM ricorra al cosiddetto Chapter 11. Andrea Malà, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, questa decisione di General Motors è inaspettata o in qualche modo qualcuno l'aveva prevista? Beh, in realtà già dalla settimana scorsa si aveva sentore del fatto che GM, che ha depositato appunto il bilancio annuale del 2008 presso la SEC, potesse non godere della fiducia totale dei revisori. Sono infatti i revisori dei conti della Deloitte che hanno si sono rifiutati, diciamo, di certificare l'azienda come un cosiddetto going concern, cioè un'azienda che andrà avanti indefinitamente ad operare, cioè in sostanza hanno espresso il dubbio che in qualche periodo, in qualche momento del futuro l'azienda non possa esserci più. Questo significa che gli stessi revisori non credono o credono possibile, molto concreta, l'ipotesi che appunto la GM o fallisca o affronti una qualche forma di riorganizzazione come appunto il Chapter 11 che avete citato, cioè una sorta di amministrazione controllata. Diciamo che questo annuncio di oggi formalizza un'opinione che era nell'aria e che è condivisa da molti. GM, che sappiamo, ha chiesto al governo americano una serie di finanziamenti fino a un totale di circa 30 miliardi di dollari e altrimenti sarebbe già fallita, e in attesa della decisione dell'amministrazione Obama, che dovrebbe arrivare entro il 31 marzo, e appunto è nell'incertezza più totale, quindi questo annuncio di oggi certifica questa incertezza. Grazie Andrea Malan del Sole 24 Ore. Continuiamo a parlare di economia, ma spostiamoci in Cina. Sì, ci spostiamo in Cina perché è riunita l'Assemblea Nazionale del Popolo. Il premier Wen Jiabao ha parlato appunto di economia. In collegamento da Pechino, Antonio Talia, cosa ha detto? Buongiorno, dunque Wen Jiabao si è detto sicuro di raggiungere l'obiettivo di una crescita dell'8% anche nel 2009, pur ammettendo che si tratta dell'anno peggiore all'inizio del secolo. Ora, i mercati internazionali ieri erano saliti aspettandosi l'annuncio di ulteriori misure straordinarie dopo il pacchetto di stimoli all'economia che era stato lanciato dal governo di Pechino nel novembre scorso. Wen in realtà non ha aggiunto niente di nuovo a questo pacchetto, ha semplicemente confermato che il deficit di bilancio cinese arriverà ai massimi livelli degli ultimi 60 anni e che il governo spenderà soprattutto in infrastrutture per dotare il paese di un vero sistema sanitario nazionale e poi spenderà in sgravi fiscali per aumentare le esportazioni. La quota della crescita del PIL dell'8% è quella che comunemente viene indicata da molti analisti come la quota minima per mantenere la stabilità sociale nel paese. La Cina aveva chiuso il 2008 complessivamente ad un più 9% e si tratta pur sempre del peggior risultato degli ultimi anni, ma nell'ultimo trimestre del 2008 era cresciuta addirittura solamente del 6,8%. Poi Wen ha riconosciuto che ci sono 20 milioni di immigrati interni provenienti dalle province più povere che sono rimasti senza lavoro e alcuni analisti sostengono anche che questi presto si potrebbero aggiungere circa 6 milioni di neolaureati disoccupati. Wen ha poi concluso dicendo che appunto verranno migliorati tutti i sistemi che consentono di rilevare le minacce alla stabilità sociale del paese per essere in grado di prevenire e gestire al meglio qualsiasi incidente di massa. I mercati internazionali appunto che ieri erano saliti aspettandosi l'annuncio di ulteriori misure straordinarie dopo questo pacchetto di stimoli hanno reagito nell'incertezza, specialmente insomma le borse asiatiche che hanno chiuso Tokyo e Shanghai leggera salita, ma Hong Kong e Seoul con una leggera discesa. E da Pechino è tutto, a voi la linea. Grazie Antonio Talia per questi aggiornamenti e per questi chiarimenti. Noi torniamo all'Italia per parlare di un appuntamento culturale. Sì, un appuntamento che riguarda Milano. A partire da oggi e fino a lunedì la rassegna Volgare Loquio, 22 appuntamenti che vedono coinvolti attori e musicisti impegnati in recital, letture di poesie, concerti in dialetto diversi, allestiti in vari luoghi simbolo di Milano, appunto. In Italia, lo ricordiamo, approssimativamente sono 31 i diversi dialetti parlati. Non ha Lucia, non ha Austria. Cinque giorni per la più grande kermesse mai dedicata alla cultura del dialetto. Fino a lunedì con la rassegna Volgare Loquio, Milano celebra l'identità, le radici e la tradizione attraverso musica, teatro e poesia. 22 appuntamenti nei luoghi simbolo della città, dal piccolo teatro alla Basilica di San Marco, dal Teatro Dal Verme al carcere di San Vittore, in compagnia di numerosi artisti. L'assessore alle culture, identità e autonomia della Regione Lombardia, Massimo Zanello, ideatore di Volgare Loquio. A metà del 2008 abbiamo approvato una legge sui beni culturali immateriali che è frutto di un lavoro che ha iniziato l'UNESCO e recepito dal governo italiano nel 2007. E da questa iniziativa è nata una rassegna per valorizzare il dialetto della nostra regione, ma non solo. Il dialetto ha una sua forza, una sua vitalità, è la lingua della letteratura, lo è stata per anni e continua ad esserlo. A condividere l'iniziativa, oltre al direttore del piccolo teatro Sergio Escobar, anche Franco Brevini, professore di letteratura italiana all'Università di Bergamo e allo IULM di Milano, curatore della manifestazione. Quello che mi sembra importante è che a livello sociale si diffonda una consapevolezza culturale seria e profonda sul valore delle lingue e delle culture che per molti secoli hanno segnato e in parte continuano ancora a segnare il paese reale. Tutti gli spettacoli e gli eventi sono ad ingresso libero tranne il concerto di chiusura di lunedì 9 marzo al Teatro Dal Verme con musicisti di provenienze diverse tra cui Davide Van de Stross e i Taranta Power, Adriana Fracchia, GR24. Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. La BCE ha appena tagliato il costo del denaro di 50 punti base, portandolo all'1,5%. In mattinata era intervenuta anche la Bank of England, anche qua tagliando di 50 punti base e portando il costo del denaro allo 0,5%. General Motors è sull'orlo del fallimento. Il colosso americano dell'auto mette una seria ipoteca sul suo futuro e parla di dubbi sulla capacità del gruppo di garantire la sua continuità. Secondo il ministro dell'economia Giulio Tremonti, il 2009 sarà un anno ancora più difficile del 2008. È strategico contrastare il rischio dei rischi, aggiunge, ossia la stretta creditizia. È pronto un nuovo gruzzoletto per gli ammortizzatori sociali, dice Tremonti. Devono essere le donne a scegliere quando andare in pensione, a dirlo il ministro delle riforme, leader della Lega, Umberto Bossi. La Cina ha protestato per il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per il presidente sudanese Bashir. Migliaia di persone in piazza Khartoum per manifestare il sostegno al presidente. Stupro della Caffarella, il principale indiziato accusa l'altro, detto il biondino, di coprire altri due rom. I due romeni hanno raccontato in carcere due parlamentari di essere stati picchiati più volte durante l'arresto e l'interrogatorio. Maxi operazione contro il traffico di clandestini tra Libia e Italia, 13 gli arresti tra Sicilia, Calabria e Lombardia. Buongiorno a Beda Romano, collegato con noi da Francoforte. Buongiorno. Allora, la Banca Centrale Europea ha tagliato di 0,5 punto percentuale i tassi. Una decisione attesa? La decisione era attesa, i mercati si aspettavano un taglio di 50 punti base, così è stato. Mai negli ultimi 10 anni, ossia da quando è nata la Banca Centrale Europea e da quando è nata la zona euro, i tassi erano scesi così in basso. Il record precedente era il 2% ed era stato toccato all'inizio di questo decennio. Ormai a questo punto i tassi sono veramente molto bassi storicamente per l'Europa. Sono stati a questi livelli molto tempo fa, ormai una quarantina di anni fa. La situazione economica è molto deteriorata, il quarto trimestre è stato molto cattivo, il primo trimestre di quest'anno rischia di essere altrettanto cattivo e la Banca Centrale Europea ha deciso quindi di ridurre molto il costo del denaro, anche per paura di una possibile deflazione. Il termine non è ancora stato usato dalla Banca Centrale Europea, capiremo oggi se lo userà per la prima volta. Beda, si ha l'impressione che in quest'ultimo periodo la BCE si stia muovendo esattamente in linea con le attese del mercato? Sì, la Banca Centrale non ha voluto sorprendere il mercato, neppure questa volta. Aveva sorpreso leggermente il mercato in ottobre, quando tagliò il costo del denaro di 75 punti base, quando il mercato si aspettava un taglio di 0,5 punto. Questa volta fondamentalmente il taglio è in linea con le attese del mercato ed è un taglio che porta il tasso all'1,50 e che permette alla banca di mantenere aperta la possibilità di un ulteriore taglio per portare il tasso di riferimento all'1%. Credo che questo sia l'obiettivo della banca, lasciare aperta la porta a un nuovo allentamento monetario nei prossimi mesi, vista la situazione. Grazie allora Beda Romano, collegato con noi da Francoforte. Noi ora passiamo a parlare della missione Oltre. Sì, perché dopo 2 mesi di viaggio in direzione dello stretto di Bering è costretta a fermarsi. Troppa neve nell'Artico russo per andare avanti fuori dalle piste battute. Sentiamo il capo spedizione Peter Johansen. In questo momento io sono sotto alcuni punti di vista un po' dispiaciuto, sotto altri punti di vista sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo iniziato ad aggredire, ad attaccare gli Urali con i nostri veicoli e abbiamo immediatamente capito che gli Urali sono una catena montuosa quasi, per quanto ci riguarda con i nostri veicoli, impenetrabile. Non riusciamo a scavalcare quel muro di neve che ci ha incontrato sulle nostre strade. Quando abbiamo deciso di seguire un percorso che i locali avevano preparato per noi, mandando 2 bulldozer con degli slittoni che avrebbero dovuto schiattare in fondo di una pista invernale che passava gli Urali, che passa gli Urali da Inta a Salekar, che come tu sai doveva essere il nostro obiettivo. Dopo alcuni chilometri per gli Urali i nostri veicoli affondavano nella neve fresca, malgrado fosse battuta, ma essendo molto soffici la neve d'inverno stranamente poco fredda, ma sufficientemente fredda da non far gelare il fondo di questi percorsi. E potete trovare la versione integrale di questo racconto su www.radio24.it o su www.ilsole24ore.com. È tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Maria Piera Ceci e con in regia Peter Bescapè. Il prossimo GR alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.